Il sole sta per tramontare. Dei bimbi corona gioca. Pisi che sorridono ed io son qui con le mie lacrime così. Con la ricchezza io potrei comprare quello che vorrei. Semplice, perciò son qui con le mie lacrime così. Un altro giorno se ne va.